c'ha la favice o martiello. Ma pensa che la rifondazione comunista è un fatto troppo bella. Allora tu sei un rapaniella. Rosso fuori, bianco dentro, yeah. Cavallo, metto un cavallo. Facoltà.